attenzione, signor Battiglio. Attenzione, signor Battiglio. Attenzione, signor Battiglio. Stucca! Attenzione, Gian Maria. Ecco, io sono qua, sbagliavo già, se non ti rispondo. Sì, non so che sia l'ascolto. Non lo so. Stavo chiamando per se c'era Battiglio. Non ho sentito per nessuno nulla, non so per niente. Poc'anzi c'era Marino e Tonino, Tonino sul GMR, c'era anche io, infatti te l'ho detto, siamo in GMR, pensavo che tu venissi, invece sei venuto. Ah, sennò mi tocca attaccare tutto quanto, mi tocca attaccare, ce l'ho attaccato. Ce l'ho attaccato solo, quando c'è nessuno lì, quando ci sta qualcuno in GMR, si farà cacciare la tira. In attesa entra qualcuno in 27. Tanto non c'entra quasi nessuno, non entra lì, quindi neanche attaccato. Stanno a coso, l'inverno attacco. Io me ne vado male, capito? A maggior parte a parlare, perché almeno lì non disturbo con quello lì, capito? Perché qua disturbo e allora preferisco andarmene là un pochino, però è acceso uno e l'altro, capito? Sempre. Anche compreso. Oggi capito. Ok, chiama Bacchino, ma mi pare che non ha gara Bacchino e casino. Se non ha gana, bisogna da voi meglio quando c'è l'ultima sollecitata. Ok, dai, adesso me ne ascolto. Ehi, la Gian Maria. Già è così. Attenzione, signor Battiglio. Otto. Ehi, la Gian Maria. Ti ho mandato la foto, non l'hai vista? No, non l'ho guardato, dopo me lo guardo. Aspetta, va. Ok, guarda, 8 fatti, sta bello. Poi 10.93.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Non ho ricevuto nulla ancora. No, aspetta, se la rimane. Hello, signor Bacchi. Hello. Ma è prima così tardi. Oh, fatta virare allora. Ecco, quindi l'hai messo a posto adesso. Oh, così è. Andiamo. Allora adesso te la stazione è zero, così è. Oh. Andiamo, aspetta che c'è Giomari. Arrivato, detto. Ehi, ma l'hai già preso. Ah, se l'hai già preso. Oh, hai fatto bene, va. Ha giubito. Dice che vedo fatto. Ciao, Bacchi, buonasera. Beh, allora, cos'è che hai combinato oggi in campagna, Bacchi? Fatto bene, ci sei riposato almeno oggi, va. Almeno la domenica. Già va bene, Bacchi, già va bene. Saluto in casa, dai, Bacchi, rimango in ascolto. Sì, così, Bacchi, già va benissimo. Andiamo bene. Quindi l'hai messo a posto del tutto adesso, funziona bene. Thank you. Fai bene, se te la metti in campagna fai bene. E per cercare di dare un fumo. Uia. Io ho difficoltato di su mangiare, ma stasera già ti giù stanza di rigi e mezzo. E infatti, se l'hai smontata, va a piazzarla piano piano, un pezzo a busta. E gli ha saldato il filo, gli ha saldato, era lì che era difettoso. Fatto bene che ve l'hai fatto nuovo allora. Quindi la piatti lì un attimino e poi ce la scendi in campagna se funziona. Infatti, se si comporta bene esci, se no, pazienza. Ma tu provala a vedere se ti dà coso. Nella 27 ti dovrebbero dare stazionario zero. Prima provala così senza toccarla, poi vedi, la cosa è 45 metri, non è alto. Basta che non sia 45 metri. Ah, ci andava bene anche per la 27. Quindi te la do per la 27. È una bibanda, 11,45. Capito? No, 27 e 45 metri. E dunque, le 45 metri a me non interessano. Mi interessa la 27. Devo usare la 27. Ah, infatti. Tu vedi quando la piatti, vedi se ci sono stazionari, se sono giuste. C'è zero. Se abbiate gucci. Sì, mi ho tagliato il braccio, mi ho tagliato 1,20 m di coso, di rogliare, perché andava bene dentro la casa di Giacomo. No, bisogna vedere se anda in 27. Se non anda la posso andare io, meglio che la cosa non la vincerà, ha salto il dentro. Se non sono le cammini, va per la pilota, ha salto il dentro. Tu vuoi fare che sabbini? Sì, c'è stato un po' di tempo fa. Ho dato la differenza, la tomba la sotto. Ah, pochi anni più. Ah, che cosa ne è finito? Senza il freddo non è proprio. Se non me la compare più, la compare subito. Ma se non imponi una revisione di macchine, no, una revisione di macchina. Mi aggiungo lei, la raggio ancora in campo, no, in tratto, non è vero. La signora migliore, dopo si è lasciata, è tracciata con di voi, una già venne a riendere con la granita, e non è trattenuta, e non è abito. Vedi, è un caso della Bonnier, io vengo subito. Se in caso ti metti una di quelle lì, se non vuoi che non va, ti metti una di quelle, ti fai una staffa, a voglia. Lo scrivo nel foto, vende poco, so. Vende poco. Ah, io guarda che con lo stilo io ce l'avevo sulla finestra e andavo mi. Non che rende poco, io ci uscivo anche con un portatore. Sì. In campagna adesso siamo dentro un fosso, c'è un canale. Va mettendo in altezza già potrebbe andare. Non è che sei proprio lontano lontano, no? Praticamente sono sotto il filo dell'acqua. Ma è chissà che, no, che non disturbi quelli vicino. Io ero passato il filo e mi del cittadino. No, io non penso. Infatti, vabbè. Vabbè, signor Bacchi, va. Ce la sentiamo domani, ce la sentiamo. Senz'altro, buona cena, buon tutto, saluto la signora, a domani. Anche io chiudo per la settimana e me ne vado giù. Ciao Tore, grazie, ciao anche all'ascoltore. Ciao Don Marie, buona serata. Ciao Bacchi, ciao, ricambiate a tutti, ciao Cattore, là, a domani. Ok, ciao Gianmarino, ci sentiamo, ciao Bacchi, alle prossime.